Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. 25 maggio. Sui monti di Gibil Rossa. Dov'è andato il venticello fresco di ieri sera? Partimmo da Marineo all'improvviso che erano le 6. Sulla montagna suonavano le voci dei pastori che raccoglievano le capre. Eravamo fuori del borgo ad aspettare di essere messi in marcia. Passò il generale a cavallo e il capitano Ciaccio comandò di presentare le armi. Il generale fece un atto di stizza come far capire che non era tempo di cerimonie. Pigliamo la via che scende da Marineo nella valle profonda. Si camminava lenti e quietamente. A un tratto, mentre era già buio da un pezzo, la colonna si fermò. Eravamo nel punto più basso della valle. Si bisbigliò che l'avanguardia aveva incontrato il nemico, ma per fortuna non era vero, che semmai eravamo schiacciati. Ripresa la via, uscimmo presto dalle sinuosità paurose di quel terreno, e innanzi a noi, in alto, vedemmo una miriade di luci. Era Misilmeri illuminato, a quell'ora per farci festa. A mezzanotte vi entrammo. Non vi era casa che non avesse un lume ad ogni finestra, ma gente per le vie poca. Si seppe di Lamasa e delle squadre da lui raccolte quassù numerose, e ci parve di poter riposare tranquilli. All'alba ci raccoglimmo, e ci fu detto che entro un'ora si sarebbe pigliata la montagna per venire qui a campo. Entrai in un bugigattolo per bere una tazza di caffè, e vi trovai Bixio, di un umore sì nero a vederlo, che me ne tornai indietro. Uno squillo di tromba fece saltare fuori da ogni banda i nostri, dispersi per le case. Ci mettemmo in marcia e si venne qui. Al fine sappiamo che il mondo esiste ancora. Eravamo nel limbo da 15 giorni e un po' di notizie ci parvero luce. Dunque il governo di Napoli ci ha battezzati filibustieri. Le sue gazzette hanno scritto che fummo battuti a Calatafimi, che uno dei nostri capi è stato ucciso, che siamo dispersi e inseguiti affinché non ci possiamo buttare alle strade ad assassinare. Queste notizie ce l'hanno portate alcuni ufficiali delle navi americane e inglesi ancorate nel porto di Palermo. Un atto di amicizia che ci ha fatto gran bene. Hanno parlato col generale, poi si sono messi a girare per il campo. Che strette di mano franche e fraterne. Uno di loro, giovanissimo, con un par d'occhi d'azzurro marino e due mani rose e di fanciulla, schizzò alla lesta 3 o 4 figure dei nostri e quella del colonnello Carini. Aveva già nell'album un caposquadra di Partenico, che io conobbi e che mi parve un modello da farne uno Spartaco. Gli altri si mescolarono a noi raccogliendo e dando notizie, e si mostravano lieti di averci trovati gente civile e colta. Li abbiamo caricati di lettere, di foglietti strappati qua e là e scritti a matita, saluti, gridi d'affetto, che essi faranno capitare alle nostre famiglie col primo legno che salperà da Palermo. Si trattennero un'ora. Dissero che la città è una caserma, ma ci hanno fatto sperare nella buona riuscita. Si sa che hanno portato al generale la pianta di Palermo coi segni dove sono barricate o posti di regi. Ora che se ne sono andati, il generale sta a consiglio coi comandanti delle compagnie. Non più a Castro Giovanni per attendere rinforzi dal continente. Pochi o assai, fra mezz'ora si partirà per Palermo. Bixio lo ha detto. O a Palermo o all'inferno. La battaglia di Palermo. 31 maggio, Palermo, nel convento di San Nicola. 3 giorni durò la bufera infernale che scatenammo sopra Palermo, più di 3 giorni. Chi non fu nella lotta deve essersi sentito al punto di venire pazzo, e noi eravamo partiti da Gibil Rossa allegri come ci fossimo incamminati a portare qui una festa. Ho riveduto da Porta Sant'Antonino la montagna da cui scendemmo la sera del 26. E a un dipresso seppi dire il punto dove sostammo per aspettare la notte. Fu un'attesa solenne. L'allegrezza si era mutata in raccoglimento, pareva che sopra di noi soffiasse uno spirito dall'infinito. Io mi era coricato tra due rocce, calde ancora della grande arsura del giorno, e mi sentiva nelle membra un tepore così dolce, che stando in quella specie di bara, con la faccia rivolta là dove il sole se n'era andato, mi colse un malinconico desiderio di essere belle morto. Poi mi invase una gioia fanciullesca e soave a pensare che l'indomani doveva essere il giorno della Pentecoste, e mi tornò in mente, confuso ricordo di cose lette da giovinetto, che i normanni assalirono Palermo appunto alla vigilia di quella festa. Gli immaginai giganti, coperti di ferro, scintillanti nella tenebrosa antichità, pronti a marciare come eravamo noi. Pochi, fidenti, condotti bene. Deliziosa mezz'ora di fantasticherie. Potevano essere le 7 pomeridiane quando ci riponemmo in via, e a notte chiusa uno dietro l'altro ci trovammo a scendere giù per un sentiero appena tracciato di balsa in balsa. Poco prima avevamo gridato o a Palermo o all'inferno, e quella ne pareva senz'altro la via. Il cielo era sereno e quieto, vietato il parlare. Si aveva fame e sonno. Qualcuno, scivolando, precipitava sul compagno che aveva di sotto, questi sopra un altro e via, tanto che 8 o 10 ci trovavamo talvolta in un fondo. E fortuna se non ci offendevamo con le nostre armi. Dopo la mezzanotte eravamo nella pianura, lontano poche miglia da Palermo. I cani latravano dai casali sparsi per la campagna. E sulla nostra destra sentivamo il rumore del mare. Alcuni lumi apparivano oltre il fitto di olivi antichi, che spandevano i rami contorti come provassero tormenti. Forse erano lumi di pescatori. A sinistra, sulle alture di Monreale, splendevano fuochi innumerevoli. Dinanzi a noi, nell'oscurità, udivo il passo pesante della colonna che ci precedeva. Chi sarà all'avanguardia? Ci domandavamo a vicenda, e pregavamo che fossero i migliori tra noi, i più rotti alla guerra, affinché potessero giungere improvvisi sui primi posti del nemico e sopraffarli. A un tratto la colonna, lì dove ero io, si commuove. Si grida «La cavalleria!». Infatti il suolo ghiaioso ripercuote un galoppo di cavalli. Ci risovvenimmo delle raccomandazioni fatteci nel partire dal campo. «Ma sì! 1, 2, 3 si sgomentano!». Balenammo, rompemmo le file e ognuno si gettò come poté nei campi, a ridosso dei muriccioli che facevano riparo alla via, o rimase cavalcioni su quelli, e nella confusione furono sparate alcune schioppettate contro un cavallo bianco che veniva verso di noi come un fantasma, povera bestia. Portava il capitano Bovi, il quale si fece riconoscere alle grida. Cessammo quello scompiglio. Ci rimproverammo tra noi, tremando che quei colpi fossero per mandare guasto a ogni cosa, e tirammo innanzi, vergognosi del silenzio severo del colonnello Carini. Per quei colpi, i latrati dei cani crebbero vicini, lontani, infiniti. Passammo presso un casone immenso, addormentato o deserto, e di là a pochi passi entrammo nella strada grande che mena a Palermo. L'aria cominciava a rinfrescarsi per l'alba imminente. Dai gruppi di case man mano più frequenti si affacciava la gente paurosa, guardando il nostro passaggio. Ci fu comandato di camminare a quattro, di tenerci a destra rasente i muri degli orti. Poi accelerammo il passo. Dalla testa della colonna si udì una schioppettata e un allarme, gridato con disperazione. E allora fu un urlo terribile. Un fuoco improvviso, un corri-corri, avanti, avanti! Entravamo nel combattimento. Urtammo in una calca di picciotti, li rovesciammo parte negli orti e parte li trascinammo con noi. Uno di questi, signore, forse caposquadra, accusava quelli furente e veniva via agitando la spada, ma in quell'ira urlò «Dio! girò sopra se stesso, fece 3 o 4 passi di fianco come un ubriaco e cadde là nel fossato, a piedi 2 pioppi altissimi, vicino a un cacciatore napoletano morto. Forse la prima sentinella sorpresa dai nostri. Li vedo ancora. E odo quel genovese che in quel punto dove il piombo grandinava, gridò nel suo dialetto: «Come si passa qui?» Gli rispose una palla, cogliendolo in fronte e stendendolo là col cranio spezzato. Si guadagnò un bel tratto rapidamente, ma al ponte dell'ammiraglio trovammo una resistenza quasi feroce. Sulla via, sugli archi, sotto il ponte, negli orti circostanti, strage alla baionetta. L'alba spuntava. Tutti si aveva non so che di selvaggio nel volto. Padroni del ponte vi fummo trattenuti da un fuoco terribile, fulminato da un muro sul quale, nel fumo, biancheggiavano i budrieri incrociati di una lunga fila di fanteria. Lì un cacciatore ferito dava del capo contro al muricciuolo del ponte per fracellarselo, ma Airenta, pietoso, lo tirò di scosto. Poi, con la sua calma che non cambia mai, continuò a sparare contro quella fila, la quale, assalita forse di fianco, spariva, mentre un po' di cavalleria caricava i nostri a sinistra e ne era respinta e ricacciata per la campagna. Faustino Tanara, quell'ufficiale dei bersaglieri, pallido, ardito e bello, veniva tempestando con un manipolo da quella parte. Con lui, incalzando, ci addensammo al crocicchio di Porta Termini, spazzato dalle cannonate di una nave che tirava a rotta e dal fuoco di una barricata di fronte a noi. Come turbine lo avevano già attraversato i più audaci dei nostri, sotto gli occhi di Garibaldi, che vidi là a cavallo, mirabile di sicurezza e di pace in faccia. Gli stava accanto Tur. Chiucori era caduto poco prima ferito, ed io lo avevo udito dire con dolcezza a 2 che volevano trasportarlo in salvo: «Andate, andate avanti, fate che il nemico non venga a pigliarmi qui». Nullo. Era già dentro con una mano di bergamaschi, balzato di là dalla barricata col suo cavallo poderoso tra i regi fuggenti. A Porta Sant'Antonino l'assalto riusciva pure, ma noi, più fortunati, fummo di un lancio alla fiera vecchia. Allora una campana cominciò a suonare a stormo e fu salutata con alte grida di gioia, come una promessa mantenuta. «Ma che cosa fanno i palermitani? Che non se ne vede?» chiesi ad un popolano che sbucò da una porta armato di daga. «Signorino, già 3 o 4 volte all'alba la polizia fece rumore e schioppettate gridando «Viva l'Italia, viva Garibaldi!» Chi era pronto veniva giù e i birri lo pigliavano senza misericordia. E i palermitani ora han paura di un nuovo tranello. Con quel popolano demmo entro per i vicoli sino a via Macheda. Là, solitudine e cannonate dall'un dei capi, tirate forse contro un giovinotto che si sfogava a calpestare un'insegna reale strappata giù dal portone di un gran palazzo. Passammo in un altro vicolo, Dio che visione! Aggrappate con le mani che parevano gigli a un'inferriata poco alta ma ampia, sopra un archivolto cupo. 3 fanciulle, vestite di bianco e bellissime, ci guardavano mute. Ci arrestammo ammirando. «Chi siete?» «Italiani. E voi?» «Monacelle. Oh, poverette! Viva Santa Rosalia! Viva l'Italia!» Ed esse a gridare «Viva l'Italia!» con quelle voci soavi da salmo e ad augurarci vittoria. Le vedrò sempre così come gli angeli dipinti dal Beato di Fiesole. Entrammo in piazza Bologna, già occupata da un centinaio dei nostri. Il generale, sulla gradinata di un palazzo, stava interrogando 2 prigionieri che piangevano come fanciulli. «Volete tornare coi vostri? Tornate pure», diceva loro il generale. Ed uno fece atto di andarsene, l'altro restò. Quello tentennò un poco, poi volle rimanere anche lui. Erano calabresi, giovani, parevano stupiti di non essere stati fatti a brani. Appena Garibaldi sedé nell'atrio del palazzo, rimbombò là dentro una pistolettata. «L'hanno assassinato!» urlammo noi dalla piazza e ci affollammo alla porta. Non era nulla. Gli si era scaricato un colpo della pistola che portava a cintura e la palla gli aveva sforacchiato i calzoni sopra il collo del piede. Ci rassicurammo. quel momento arrivò Bixio. Lo avevo visto poco prima lanciarsi tempestando addosso ad uno che, vedendolo ferito, aveva osato pregarlo di ritirarsi, e buon per colui che trovò una porta da ripararvisi. Era fuoco in faccia, impugnava un mozzicone di sciabola, si piantò dinanzi a noi e... So, 20 uomini di buona volontà, tanto tra mezz'ora saremo tutti morti. Andiamo al Palazzo Reale! E contò i 20 che già partivano con lui, se non che fu chiamato dal generale, obbedì ed entrò nell'atrio a consiglio. Vi erano già alcuni signori palermitani e un prete. La città cominciava a scuotersi, a ruggire sordamente. Da Castellammare si udì uno scoppio, la prima bomba rombò nell'aria e cadde, e fu una imprecazione che parve riempire il cielo. Da quel momento campane a stormo per tutto, e una bomba lanciata ogni 5 minuti, pausa funebre e crudele. Verso le 3 pomeridiane i cittadini cominciavano a rovesciarsi per le vie, noi un po' scorati nelle prime ore, pigliavamo animo. Sorgevano le barricate, uomini e donne lavoravano arditamente. Cadeva una bomba, tutti a terra, scoppiava, viva Santa Rosalia, e tutti su, a lavorare da capo. Così venne notte. Il castello cessò di tirare. I regi occupavano la parte alta della città, noi il resto. A Palazzo Pretorio si era piantato il quartiere generale. I donzelli del municipio, con le giubbe rosse, si affaccendavano, giovani e vecchi, per il dittatore. Intanto nuove squadre entravano da Porta Termini, ne vennero tutta la notte, e noi la invocavamo lunga, per riposarci e prepararci all'evento. 31 maggio. Ma l'alba arrivò che l'ore parvero minuti, e la sveglia del secondo giorno fu data dai regi di Castellammare, che ricominciarono con le bombe. Le lanciavano misurate sul Palazzo Pretorio, sperando forse di schiacciarvi il quartiere generale. Ma le bombe piombavano sul convento di Santa Caterina, a un angolo della piazza, e il generale se ne stava a piedi una delle statue della Gran Fontana, dinanzi al palazzo. Lì riceveva le notizie dai punti combattuti della città, di lì partivano i suoi ordini. Lì lo vedevamo noi di tanto in tanto, passando sbalestrati ora da una parte, ora dall'altra, dove ci chiamava il bisogno. In uno di quei momenti che non ne potevamo più dalla sete, Bozzani ed io traversavamo una piazza. «Vediamo se in questa casa ci danno un sorso d'acqua», dissi io. E battei a un gran portone sul quale era scritto «Domicilio inglese». Fu scostato un battente e vedemmo nel cortile una folla costernata. Entrammo e ci venne incontro un signore che non sapeva quale accoglienza farci, ma pareva lì lì per pregarci di tornare indietro. Però, sentendoci parlare, subito si mostrò cortese e ci tirò in mezzo a quella folla, fece portare acqua e vino. Bevemmo, ringraziammo e volevamo partire, ma tutta quella gente, signore e signorine, ci furono attorno, ci prendevano le mani, ci pregavano di stare lì a proteggerle. Alcune piangevano dalla compassione per noi. Vollero i nostri nomi e noi li scrivemmo su di un foglietto. Ci tempestavano di domande, e per la città che c'è, e chi vince, e quanto durerà, Santa Rosalia che spavento. Perdonate se non vi ho fatto subito buon viso, ci diceva il Signore venutoci incontro. Avevano detto che eravate mostri feroci, che bevevate il sangue dei bambini, che scannavate i vecchi. Invece siete gentili, e noi a ridere. E le donne? E Garibaldi dov'è? È giovane? È bello? Com'è vestito? Rispondevamo in quella confusione amorevole, e intanto i giovinotti ci pigliavano di mano gli schioppi, discorrevano tra loro, si accendevano in faccia, ci invidiavano, ma il vecchio con un'occhiata li teneva a segno. Uscimmo di là con la promessa di tornare, e appena fuori vedemmo una turba alla porta di un fornaio. «Il forno dei promessi sposi», disse a Bozzani, «bisogna correre che non lo saccheggino». E corremmo, ma quella gente non faceva tumulto, pigliava i pani, pagava e se ne andava, facendo posto ad altra gente che sopravveniva. Un signore ci disse che dal giorno innanzi la sua famiglia non aveva mangiato, colta dalla rivoluzione, senza provviste in casa, e soggiungeva: «Siete arrivati così di sorpresa? Però siete contenti?» Gli chiesi: «Santo diavolo, siete i nostri liberatori». In piazza Pretoria vi era tal folla che, come dice il Manzoni, un granello di miglio non sarebbe caduto a terra. Il dittatore dal balcone a sinistra, quasi sull'angolo di via Macheda, finiva un discorso di cui colsi le ultime parole. «Il nemico mi ha fatto delle proposte che io credei ingiuriose per te, o popolo di Palermo. Ed io, sapendoti pronto a farti seppellire sotto le ruine della tua città, le ho rifiutate. Non vi può essere paragone che basti a dare un'idea di quello che divenne la folla a quelle parole. I capelli mi si rizzarono in capo, la pelle mi si raggrinzò tutta all'urlo spaventevole e grande che proruppe dalla piazza. Si abbracciavano, si baciavano, si soffocavano tra loro furiosi. Le donne più degli uomini mostravano il disperato proposito di sottoporsi a ogni strazio. «Grazie, grazie», gridavano levando le mani al generale, e dal fondo della piazza gli mandai anch'io un bacio. Credo che non sia mai stato visto sfolgorante come in quel momento da quel balcone. L'anima di quel popolo pareva tutta trasfusa in lui. Ma alla sera, verso le 10, lo rividi cupo, agitato lì a piedi quella statua dove passava le notti. Mi aveva chiamato il tenente Rovighi per mandarmi a portare un ordine. Il generale mi pose con le proprie mani un foglietto tra la canna e la bacchetta dello schioppo. Mi comandò di farlo leggere a tutti i capi posto che avrei trovati sino a Porta Montalto e che, giunto là, lo lasciassi al colonnello Carini. Mi avviai col cuore stretto. Il primo capo posto che trovai fu Vigo Pelizzari. Gli porsi il biglietto. Egli lo lesse. Si turbò un poco e me lo ridiede, ma senza dire nulla ai suoi che gli si affollarono intorno. Tirai innanzi, bruciando dal desiderio di conoscere il contenuto di quel foglio. Potevo leggerlo. Non osai. Dal colonnello Carini, cui lo rimisi per ultimo, seppi poi che vi era scritto: «Dicesi che siano sbarcati 800 tedeschi, ultima speranza del tiranno. In caso di attacco da forze sovvertianti, ritiratevi al palazzo Pretorio». Carini non si mostrò guari commosso per la notizia. Mi rimandò con la ricevuta del foglio ed io me ne rivenni pensando con dolore come una mano di stranieri potessero mettere in forse le sorti della città e nostre. Ma arrivando al palazzo Pretorio trovai il generale già mutato d'umore. Discorreva con Rovighi dicendo che sperava di farla finita l'indomani, che al palazzo reale i regi non avevano più munizioni da bocca, che non potevano più comunicare né col castello né con la marina. Mi rallegrai fino in fondo all'anima, e stanco morto mi rannicchiai là vicino col picchetto di guardia. Ieri, finalmente verso mezzodì, ricevemmo a Porta Montalto l'ordine di cessare il fuoco. Subito corsi al palazzo Pretorio, dove trovai che l'armistizio era concluso per 24 ore, tanto che si potessero seppellire i morti. Era bello e sottoscritto il foglio quando capitò un prete, che mi parve quello venuto sin dal mattino del giorno 27 in piazza Bologna. Gridava al tradimento, annunziando che i bavaresi entravano da Porta Termini. Ci rovesciammo quella volta quanti eravamo là attorno, e arrivammo a Porta Termini, che già i bavaresi avevano oltrepassata una barricata. Si arrestarono vedendo un parlamentario avviarsi a loro, cessarono il fuoco. Ma uno dei loro ultimi colpi sciagurati colse nel braccio sinistro, presso la spalla, il colonnello Carini. Egli cadde e fu trasportato al palazzo Pretorio come in trionfo. Nel tornare a Porta Montalto, passai con Erba dalla piazzetta della nutrice per vedere se vi fosse ancora quella povera morta di ieri l'altro. Non vi era più. Mentre ne parlavo ad Erba, un colombo venne a posarsi pettoruto su di una gronda lì sopra. Gli tiro. Tira pure. Meraviglioso. Il colombo venne giù senza testa come un cencio. Bravo! Sentimmo gridare. E vedemmo cinque ufficiali napoletani che venivano verso di noi. «Bravo tiratore!» dicevano, stringendo la mano ad Erba e a me, mortificato del tiro felice. Ma Erba: «Oh, non è nulla, noi codesti tiri li facciamo a volo!» «Anche a volo!» esclamarono gli ufficiali. «Ma allora siete davvero bersaglieri piemontesi?» «Che bersaglieri!» rispondemmo noi, e sempre tempestati di domande ci lasciamo tirare da quei cinque a visitare la piazza del Palazzo Reale. Vedemmo Non so quante migliaia di soldati accampati sulla piazza. Mangiavano lattuga ammanate come pecore e ci guardavano da ammazzarci con gli occhi. Un vecchio colonnello con certa barba sulle guance che pareva cotone appiccicato, rubizzo, adusto, bell'uomo, ci accolse cortese. Anch'egli voleva a forza farci confessare per soldati di Vittorio Emanuele. «Eh?» diceva. «Farebbe meglio il vostro re se pensasse a casi suoi. Non avrà sempre come l'anno scorso i francesi. Oh, meglio certamente, mille volte meglio se vi eravate voi», disse Pronto Erba. «Gli austriaci li avremmo fatti andare via anche da Venezia». Il colonnello parve uno che sia lì per sdrucciolare e cerchi di agguantarsi. «Vedrete, vedrete voi che domani sarete tutti morti», troncò bruscamente. «Meritereste miglior fortuna, ma vi siete cacciati in questa Palermo che vi lascerà schiacciare. Però sino ad oggi dobbiamo lodarcene di Palermo». «Bene, bene, lodatevene pure». E come vide che i soldati si affollavano, temendo forse per noi, si mosse e ci fece accompagnare via. Thank you.